se un eco dittatore venisse e cancellasse i fumi della centrale, spegnesse di colpo l'apocalisse, sarebbe tutto troppo facile, come ascoltare canzoni stupide col testo poco impegnativo e compatibile con la nostra umertà, con la vostra umertà, con la nostra umertà. Ma se sto fuoco si spegne, riaccendete le fiamme, consolate le mamme e gridate in città. La nostra libertà, la vostra libertà, la loro libertà, la loro, la nostra o la vostra. Soffiano ancora venti di speranza su monti di immondizie e muri d'arroganza. Soffiano ancora venti di speranza su monti di immondizie e muri d'arroganza. Vi lascio le solite cose, il disordine della mia cameretta e un'overdose di paranoie miste alla compagna paura. La vita è dura e per quelli come voi l'amore non dura. Ho messo tutto a posto disordinatamente, perché nel vostro ordine non si trovava niente. E c'è chi ha il vizio di bere e di fumare, io c'ho il vizio di sognare e i vizi sono duri da ammazzare. Soffiano ancora venti di speranza su monti di immondizie e muri d'arroganza. Soffiano ancora venti di speranza su monti di immondizie e muri d'arroganza. Eco dittatore venisse e cancellasse di colpo i tumori, le discussioni inutili e le temperature da tropici registrate ultimamente in Finlandia. Finlandia! Finlandia! Sarebbe tutto troppo facile, come tollerare l'ambiguità della verità, compatibile e conforme con la nostra omertà. Ma c'ho un difetto, un soffetto e mica tempo per mendica. Soffiano ancora venti di speranza su monti di immondizie e muri d'arroganza. Soffiano ancora venti di speranza su monti di immondizie e muri d'arroganza. E per Versigno, e per Fukushima, per chi già il mezzo del respirare sostina, e per chi lotta, per chi dietro fumano le scarpe ancora de Malagrotta, per chi odia l'Ilva amando Taranto, per chi a Vicenza vuole più case meno base, per chi risale sfidando il baratro, per chi innalzerà il sole nuovo del mondo che verrà, del mondo che verrà, del mondo che verrà.